el sol es y nasconde el vergelo potreste a checare. Tu qui, pace nel mio cuore. Tu qui, grembo virginale. Maria, quando appari anche il mare si ferma ad ascoltare.